Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge Caro Michele di Natalia Ginzburg. La 500 di Angelica era posteggiata davanti alla chiesa nuova. Salita in macchina, essa rimase un attimo immobile. Poi si diresse verso Piazza Farnese. Ricordò che un giorno, in ottobre, aveva visto il padre in via dei Giubbonari. Egli veniva avanti con i suoi passi larghi, le due mani in tasca, i lunghi ciuffi neri scompigliati, la cravatta che svolazzava, la giacca di alpaga nera, come sempre molto spiegazzata e sgualcita, la bruna e grande faccia con la grande bocca sempre amara e disgustata. Lei era con la bambina e uscivano da un cinema. Lui le porse la mano, una mano molle, sudata, svogliata. Non si baciavano più di diversi anni. Non avevano un granché da dirsi, essendosi sempre visti pochissimo. Presero il caffè in piedi in un bar. Lui comperò per la bambina una grande pasta con la crema. Lei avanzò il dubbio che fosse una pasta vecchissima. Lui si offese e disse che in quel bar veniva sovente e non avevano mai paste vecchie. Spiegò che sopra quel bar abitava una sua amica, un irlandese che suonava il violoncello. Mentre bevevano il caffè, comparve l'irlandese, una ragazza grassoccia e non bella, con un naso fatto a scarpa. Andarono a vedere dei cappotti, perché l'irlandese voleva un cappotto. Andarono in un negozio di abiti in Piazza del Paradiso. L'irlandese cominciò a misurarsi dei cappotti. Il padre comperò per la bambina un piccolo poncio con disegnati dei caprioli. L'irlandese scelse un lungo cappotto di renna nera foderato di pelliccia bianca e fu molto felice. Il padre pagò tirando fuori dalla tasca una manciata di biglietti sgualciti. Dalla tasca rimase fuori un lembo del fazzoletto. Aveva sempre un lembo di fazzoletto che gli pendeva dalla tasca. Poi tutti andarono alla Galleria Medusa, dove il padre stava preparando una mostra che si apriva qualche giorno dopo. I proprietari della galleria erano due ragazzi con giacche di cuoio ed erano intenti a scrivere gli inviti per l'inaugurazione. I quadri erano già quasi tutti appesi e c'era un grande ritratto della madre, dipinto molti anni prima, quando ancora il padre e la madre vivevano insieme. Si vedeva la madre a una finestra, con le mani intrecciate sotto il mento. Portava una maglia a righe bianche e azzurre. I capelli erano una nuvola rosso fuoco. Il viso era un secco triangolo, beffardo e pieno di solchi. Gli occhi erano pesanti, sprezzanti e languidi. Angelica ricordò che erano, quando lui aveva dipinto quel quadro, in una loro casa a Pieve di Cadore. Riconobbe la finestra e i tendoni verdi della terrazza. Dopo, quella casa era stata venduta. Con le mani in tasca, il padre si fermò davanti a quel quadro e ne lodò a lungo i colori che definì acidi e crudeli. Poi si diede a lodare ogni suo quadro appeso. Negli ultimi tempi, egli si era messo a fare dei quadri enormi dove affastellava ogni specie di cose. Aveva scoperto la tecnica dell'affastellamento. Fluttuavano in una luce verdognola navi, automobili, biciclette, autobotti, bambole, soldati, cimiteri, donne nude e animali morti. Con la sua voce amara e gracchiante, il padre disse che nessuno era in grado oggi di dipingere con tanta vastità e tanta precisione. La sua pittura era tragica, solenne, gigantesca e minuziosa. Egli diceva «la mia pittura», calcando sulla R in una sorta di rullio collerico, solitario e doloroso. Angelica pensò che né lei, né l'irlandese, né i proprietari della galleria, né forse il padre stesso, credevano una sillaba di ciò che diceva quella voce gracchiante. La voce suonava lacerante e solitaria come un disco rotto.

8 dicembre 1970. Caro Michele, missione compiuta per quanto riguarda il piccolo oggetto dimenticato nella tua stufa. Questo piccolo oggetto io l'ho buttato nel Tevere, essendo, come tu hai detto, rugginoso. Invece non sono andata dalla ragazza di Via dei Prefetti, non ne ho avuto il tempo. La mia bambina è il raffreddore, poi tu mi hai detto che a questa ragazza devo portare dei soldi e io di soldi in questo momento non ne ho. Nostro padre è stato sepolto 3 giorni fa. Io ti scriverò più a lungo appena mi sarà possibile. Angelica. Dicembre 1970. Caro Michele, ricevo ora la tua breve lettera. Non so cosa ti abbia impedito di venire giù quando è morto tuo padre. Non riesco a immaginare niente che possa impedire a una persona di ritornare quando c'è una disgrazia. Non capisco. Mi domando se verrai giù quando io morirò. Sì, ai vari parenti abbiamo detto che eri a Londra con la polmonite. Che tu vada nel Sussex, io sono contenta. Ci deve essere un'aria molto buona. Io sono sempre contenta quando so che siete in campagna. Quando eravate piccoli, mi ammazzavo di noia nelle villeggiature per mesi e mesi, pensando che ogni giorno di più in campagna era un beneficio per voi. Dopo, quando tu sei rimasto con tuo padre, impazzivo all'idea che tante volte lui ti faceva stare a Roma in piena estate. Lui non amava la campagna e amava solo il mare. Ti mandava la mattina a Ostia con la donna di servizio e diceva che andava bene così. Non mi dici se devi anche cucinare per questo professore di glottologia. Scrivimi se devi cucinare, ti manderò delle ricette. Matilde ha un grosso quaderno dove incolla tutte le ricette che trova sui giornali e sui calendari. Tu mi dai il tuo numero di telefono nel Sussex, ma dovrei telefonarti dal posto pubblico, perché ancora non mi hanno messo il telefono. Il posto pubblico è un'osteria, è sempre pieno di gente. Io ho paura di mettermi a piangere se ti telefono. Lì non è un posto adatto per telefonare e piangere. La morte di tuo padre mi ha colpito duramente. Io adesso mi sento molto più sola. Non mi dava nessun appoggio perché non si interessava a me. Non si interessava nemmeno alle tue sorelle. Mi importava solo di te. E il suo affetto per te sembrava rivolto non a te, ma a un'altra persona che si era inventato e che non ti rassomigliava a niente. Non so spiegarti perché mi sento più sola da quando è morto. Forse perché avevamo in comune delle memorie. Queste memorie le avevamo solo io e lui al mondo. È vero che non usavamo farne parola quando ci incontravamo. Però mi rendo conto adesso che non era necessario farne parola. Esse erano presenti in quelle ore che passavamo al caffè Canova e che io trovavo oppressive e interminabili. Non erano memorie felici, perché io e tuo padre non siamo stati mai molto felici insieme. E anche se siamo stati brevemente e raramente felici, tutto poi è stato sporcato, calpestato e travolto. Ma non si amano soltanto le memorie felici. A un certo punto della vita ci si accorge che si amano le memorie. Ti sembrerà strano, ma io non potrò più entrare al caffè Canova, perché se entrassi là mi metterei a singhiozzare come una cretina. Se sono sicura di una cosa è che non voglio piangere davanti alla gente. Quel cameriere di tuo padre, che non mi ricordo mai se si chiama Federico o Enrico, l'abbiamo liquidato e se l'è preso la moglie di Osvaldo, Ada. Secondo Matilde dovevo prendermelo io, ma non ne avevo voglia perché mi sembra un cretino. Secondo Osvaldo questa Ada gli insegnerà ogni specie di cose perché pare che abbia il genio di istruire i camerieri e farli diventare impeccabili e impenetrabili. Non so come farà a rendere impeccabile questo ispido e stralunato ragazzo che sembra un cinghiale, ma Osvaldo dice che l'arte di Ada non ha limiti nelle sublimazioni dei camerieri. Thank you. Thank you.